Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata della mia trasmissione. Subito la mail alla quale segnalare i casi: unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore, quindi su internet. Lo trovate nella voce Agorà dell'home page del Sole. La mia rubrica si chiama Guardie o ladri. Di cosa parlo? Di legalità e criminalità. I miei cavalli di battaglia non soltanto al Sole come inviato, ma anche a Radio 24. Allora, oggi parliamo di un caso che si è risolto positivamente, quindi non si tratta di rinfocolare polemiche, ma comunque che dà il senso di quanto a volte pubbliche amministrazioni e imprese parlino due lingue completamente diverse. Ci troviamo a Catanzaro e prendiamo questo come un esempio di chissà quanti altri casi in giro per l'Italia, dove un gruppo noto, notissimo, un gruppo imprenditoriale famoso, il Guglielmo, molti di voi avranno bevuto il caffè Guglielmo, quindi non stiamo facendo pubblicità, ma stiamo parlando di un gruppo imprenditoriale che ha anche attività nel settore alberghiero, del turismo e della ricreazione. Un bel giorno decide di ampliare o comunque dare vita ad una nuova forma di un albergo al centro della città. Ebbene, lì cominciano dei problemi. Ripeto, polemiche le lasciamo fuori e da parte. Il caso si è risolto. Ma il caso di cui Catanzaro informa, che è il mensile di Confindustria Catanzaro, dà notizia solo ora, è davvero molto interessante. Ed è per questo che io do il buongiorno a Matteo Tubertini, vicepresidente del gruppo Guglielmo. Buongiorno a lei, dottore. Grazie per la vostra cortese ospitalità in questa trasmissione. E do il buongiorno a Domenico Iacono Antonio, assessore all'urbanistica di Catanzaro. Buongiorno a lei, ai radioascoltatori, al dottore Tubertini che sta al telefono con noi. Benissimo, allora, che cosa succede? Che appunto il gruppo Guglielmo vuole ampliare la propria attività alberghiera e lì cominciano una serie di problemi. Pensate che per ottenere l'autorizzazione di una scala antincendio ci sono voluti 6 mesi, la presentazione di 3 progetti. Allora io voglio parlare di questo, di questi abusi. Perché pubblica amministrazione e imprese parlano di linguaggi diversi? E lo faccio partendo da una frase che mi ha molto colpita del gruppo Guglielmo. Il gruppo Guglielmo ha detto e ha dichiarato ufficialmente, quindi non sto inventando nulla: noi non cerchiamo favori, ma il rispetto dei diritti dei cittadini. Come a dire, avremmo potuto anche cercare delle vie traverse, ma non lo abbiamo fatto per questione di principio. Allora, Tubertini, ci racconti un po' com'è andata la vicenda. Allora, innanzitutto vorrei partire da una frase che il Presidente della Repubblica, quando è venuto in Calabria, ha pubblicamente detto, ribadito e sottolineato: che bisogna superare ogni forma di inerzia e di stanca gestione dell'esistente. Su questo sono pienamente d'accordo e da qui vorrei partire poi a spiegare quello che è successo a noi. Prego. Noi nel 2006 abbiamo deciso di ristrutturare la nostra attività e metterla a norma per quanto riguarda l'antincendio, portatori di handicap, per renderla idonea alla nuova normativa in materia di sicurezza. Abbiamo fatto le documentazioni necessarie e abbiamo iniziato l'iter che per legge è richiesto. È qui che è iniziato il problema. Purtroppo l'iter di legge, e il dottor Iacono Antonio me ne darà ragione, infatti nell'analisi poi noi non abbiamo aperto nessun tipo di contenzioso col comune. Vorrei esporre le difficoltà che un imprenditore ha per operare in maniera lecita e legale in Italia, in Calabria e a Catanzaro in questo caso. Ci sono, ahimè, delle leggi che sono, uno, di difficile interpretazione, non solo per l'utente finale, che in questo caso è l'attività, è l'hotel che rappresento, ma anche per gli stessi dirigenti che si trovano di giorno in giorno a dover esporre e assorbire delle modifiche di leggi stesse che sono retrograde, vecchie e arcaiche, e quindi non hanno difficoltà proprio di mettere l'utente finale in condizione di poter ottemperare ai termini di legge. Ecco, questo è chiarissimo. Noi siamo usciti sui giornali l'8 maggio. Voglio solo sottolineare questa data. Il 5 maggio il problema era già risolto, proprio perché non volevamo far pressioni al pubblico, alle istituzioni, accusare il dottor Iacono Antonio o il sindaco Olivo o la giunta tutta, perché non era un problema politico, era proprio un problema legislativo italiano. Sì, no, ma infatti infatti questo qui è chiarissimo, barriera. Tubertini è chiarissimo, talmente chiaro che voi ad un certo punto, e ve ne date atto, non avete certamente cercato polemiche, ma ad un certo punto avete detto: ci troviamo nella paradossale situazione per la quale, anziché creare dei posti di lavoro, se va avanti così con i ritardi e sulle licenze che abbiamo chiesto, sulle autorizzazioni e quant'altro, ci troveremo costretti addirittura a licenziare. Allora, qui non si tratta di accusare nessuno, però, caro dottor Iacono Antonio, lei che è assessore all'urbanistica del Comune di Catanzaro, ma non si era detto tanti anni fa che doveva nascere lo sportello unico per le attività produttive, che avrebbe dovuto risolvere, non dico miracolosamente con una bacchetta magica, ma insomma che avrebbe dovuto risolvere i problemi degli imprenditori che volevano o creare nuova occupazione o ampliare le proprie attività produttive? Sì, innanzitutto la ringrazio per l'occasione che ci date di partecipare alla vostra trasmissione, che ha un titolo un po' forte, abuso, certo, e altre cose, e ho sentito con piacere la tranquilla analisi del dottore Tubertini per la positiva soluzione della vicenda. Per quanto attiene allo sportello delle attività produttive, esiste nel comune di Catanzaro e funziona bene, ma questa volta non si trattava di iniziare un'attività produttiva, bensì, come ha ricordato il dottore Tubertini, di una messa in sicurezza con la dotazione di una scala antincendio. Ma comunque lei ha detto un'inesattezza e su questo devo correggerla. Lo sportello unico serve anche per chi ha già un'attività produttiva, attenzione, è l'interfaccia con tutte le amministrazioni che intervengono nel processo di un iter amministrativo di un'impresa. Mi dispiace, ma la legge la conosco. Guarda, assessore, la precisazione, mi perdoni se mi dà la possibilità. No, io gliela do, però la correggo quando sbaglia. Lei mi ha chiesto di sapere le attività, se c'è uno sportello delle attività produttive. Io ho detto che c'è uno sportello delle attività produttive che funziona. Per quanto attiene alla problematica che siamo in discussione, si trattava di dare una deroga alle distanze previste nel regolamento edilizio per una scala antincendio da realizzare al di fuori della struttura di questo importante albergo, di questo importante gruppo imprenditoriale della città, ma non solo della città, della, certo, Calabria nazionale. Detto questo, i sei mesi che lei ha ricordato debbono anche tenere conto, lo saprà anche il dottore Tubertini, ma lo sappiamo, lo sa tutta l'Italia, che Catanzaro è stata interessata nel mese di aprile del 2008 della competizione elettorale provinciale. La pratica era depositata in consiglio, perché non si trattava di semplice autorizzazione, ma di un'approvazione in deroga alle norme tecniche e al regolamento edilizio, per cui il consiglio comunale nel mese di aprile non si è riunito per volontà dei capigruppo della politica, e il 5 di maggio, alla prima occasione utile, la pratica è stata approvata all'unanimità con la volontà di tutto il consiglio comunale, per cui subito dopo le autorizzazioni sono state rese possibili. Quindi, state senz'altro qualche ritardo, certo, legato a varie situazioni, però tuttavia, come ha ricordato il dottore Tubertini, questa volta, ecco, la sua trasmissione può dare notizia di un caso risolto assolutamente positivamente, è quello che stiamo facendo, la buona volontà. Però vede, assessore, la buona volontà, secondo me, io voglio dire, parlo in maniera molto franca, lo avrà capito, la buona volontà a mio giudizio non basta. Le spiego questo, ripeto e sottolineo, va dato atto alla vostra amministrazione di aver risolto il problema, lo abbiamo detto, però mi scusi, assessore, ma le sembra normale che un imprenditore, io le chiedo questo come amministratore di una città, sia essa Catanzaro, potremmo anche trovarci a Livrea, le sembra normale che un imprenditore deve aspettare il passaggio di un'elezione ad un'altra, quindi attendere i tempi della politica per una decisione? L'economia non attende i tempi della politica, l'economia attende i tempi del mercato, che non sono quelli della politica, assessore. Interessati alla competizione elettorale hanno ritenuto giustamente e legittimamente di non partecipare a decisioni che avrebbero potuto in qualche modo sembrare di parte. In questo frangente cosa è successo? Che per poter derogare a delle distanze per la realizzazione di una scala sul suolo pubblico sono passati sei mesi, di cui almeno uno e mezzo legato a questo fatto qua, ma del resto io sono contento di partecipare insieme al dottore Tubertini a questa situazione. L'amministrazione ha poi partecipato come dire, all'inaugurazione di questa importante struttura, certo, produttiva della città di Catanzaro. Non ce ne sono molte in città, e quindi ringrazio il gruppo Guglielmo per la loro disponibilità a continuare impresa in città, che ecco, in benissimo, una situazione, come dire, asfittica ed economica, quella delle città del benvenga sud, nuova occupazione, che è una cosa importante, assolutamente. Dottor Iacono Antonio, io la ringrazio per il suo intervento. Una battuta finale, Matteo Tubertini, velocissimi flash. Guardi, io ho una battuta finale che sul quale voglio proprio sottolinearlo, che a mio avviso, per tutelare le imprese che cercano di fare impresa sana, ma non dico a Catanzaro, dico in Italia, perché voglio essere più lungimirante, ovunque, bisognerebbe creare, questo qui dovrebbe fare il governo, i vari governi regionali, provinciali, un corridoio particolare per gli imprenditori onesti, che devono dialogare con le pubbliche amministrazioni in maniera diretta, e per diretta intendo senza fronzoli, senza secondi fini, devono dialogare, un rapporto diretto, quello penso che sarebbe alla base di tutto e sarebbe un sinergico per l'attività imprenditoriale in senso lato. Non ci si deve più trovare a dover combattere contro le lentezze burocratiche, che non sono dovute al dottor Iacono Antonio, certo, al dottor Olivo, sindaco di Catanzaro, ma alla burocrazia italiana, che mi creda, è vergognosa, ma detta di tutti. Assolutamente d'accordo su questo. Io la ringrazio, Tubertini, per il suo intervento. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.